Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica La radice del problema. Ci ritroviamo su Libera Caffè dopo un po' di tempo per discutere del momento politico italiano e in particolar modo del momento critico dei democratici di sinistra. Certo è difficile poter parlare di DS partito sano e per quanto poi si sforzino anche i vertici del partito, le notizie che giornalmente vengono fornite dagli organi di informazione, anche di quelli più vicini all'area unionista, dicono esattamente il contrario, ovvero che i DS non sono da considerarsi al momento un partito che possa autoproclamarsi, come d'altronde ha sempre fatto, sano. Finiti dunque i tempi del buonismo e del giustizialismo estremo, ora, nell'occhio del ciclone, devono tener conto un po' di tutti, dagli avversari politici che si tolgono il classico sassolino dalla scarpa, ai propri alleati che ovviamente chiedono, anche se troppo velatamente, chiarimenti urgenti, ma soprattutto devono tener conto dei propri elettori, di quelli incerti. Tutto ciò che sta accadendo riguarda i DS può in effetti creare una vera e propria fuga di voti dal partito, in altri partiti unionisti ovviamente. Sento da più parti personalità importanti del mondo politico italiano dire che bisognerebbe abbassare i toni, e in un certo senso si può essere d'accordo, ma abbassare i toni ci può anche stare, però nello stesso tempo bisogna non cadere in una falsa quiete che potrebbe solamente portare ad abbassare la guardia rispetto ai fatti che stanno accadendo. Quindi si rischierebbe di calmare troppo le acque e perdere di vista tutto ciò che sta accadendo. A mio avviso non è poi solo la sinistra a perdere. In questo momento credo che tutta la politica italiana stia perdendo qualcosa, perché quando ci fu il passaggio dalla prima alla seconda fase repubblica, a questo punto bisogna solo chiamarla fase repubblica, si pensava che tutti i mali italiani e della politica italiana sarebbero terminati con la messa alla gogna di Craxi come unico e solo colpevole. Proprio da chi allora tirava monetine e dava lezioni di legalità, abbiamo trovato questa sorpresa. Quindi penso che perda davvero l'Italia politica, che poi da quel momento storico non è affatto maturata e forse non ha capito nulla. Bene, ci sarebbe ancora tanto su cui discutere, ma la puntata finisce qui. Nilo vi dà appuntamento sempre sul Libera Caffè con la rubrica. Un saluto a tutti, a presto.